Le ragioni partono dal fatto che ognuno di noi ogni mattina si alza guardando, vedendo immagini che fanno rivoltare lo stomaco. Siamo di fronte ad un esercito, fra l'altro fra i meglio attrezzati del mondo, che spara indiscriminatamente sui civili, che sta attuando di fatto un genocidio, non ha nessuna remora ad affamare bambini, vecchi e famiglie e poi ad attirarli verso il cibo e a sparargli direttamente, perché l'idea è quella di conquistarsi l'intero territorio palestinese, non solo, fino addirittura alla Siria, e quindi eliminare completamente quel popolo che sta eroicamente e con le possibilità che ha resistendo ormai da anni. Di fronte a questo non potevamo che sostenere l'azione, il progetto di Global Flotilla, come sosteniamo da sempre la libertà dei palestinesi di autodeterminare il loro futuro, e quindi chiaramente a partire dalla riconquista della loro terra, del loro stato, della loro nazione. Oggi è uno sciopero che sarà molto molto partecipato in ogni luogo di lavoro, sarà uno sciopero realmente di massa a Bologna come in tutto il resto d'Italia, perché la sensibilità su questo è molto forte, ma perché soprattutto il popolo, diciamo, del mondo del lavoro ha una rabbia in corpo rispetto a una politica che, in particolar modo chiaramente quella che siede al governo, non solo non sta facendo nulla per fermare questo genocidio, questo massacro che appunto vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi, ma lo sta di fatto sta sostenendo con i rapporti commerciali, con i rapporti militari, con i rapporti politici. E su questo noi scendiamo in piazza, perché deve cambiare radicalmente questa politica, deve essere una politica che sia espressione di quello che sarà oggi la piazza, cioè solidarietà attiva alla resistenza palestinese, al popolo palestinese, per la nascita dello Stato della Palestina e perché sia terminata la guerra in Medio Oriente. Abbiamo visto che anche l'Europa, per usare un eufemismo, balbetta. Beh, intanto l'Europa, diciamo che è un ossimoro, nel senso che l'Europa di fatto non esiste, nel senso che ha dimostrato un'incapacità assoluta di avere una politica comune fra tutti i paesi che ne fanno parte, se intendiamo l'Unione Europea. Però l'Europa in realtà balbetta, dice alcune cose che servono dal punto di vista mediatico, ma nella sostanza sta sostenendo il governo di Netanyahu, comunque sta sostenendo il progetto sionista, che è la base ideologica sulla quale si muove lo Stato di Israele per eliminare i palestinesi.